Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Perché la faccia che avevi una volta è rimasta stampata qui, nei tuoi modi di fare, nel tuo palpitare, distinguerti, nella vecchia passione, nella tentazione di essere. Non piangere, coglione, ridi e vai. È tratto dalla canzone di Paolo Conte Una faccia in prestito il titolo del libro di Amedeo Romeo Non piangere coglione, pubblicato da ISBN. Per Amedeo Romeo, attore, regista teatrale, traduttore, è il primo romanzo. Un bel romanzo con un tema decisamente originale. Il protagonista Andrea è affascinato dalle donne incinta. Adora tutto della maternità, dalla pancia al profumo della crema contro le smagliature, come ci racconta lo stesso autore. È una passione, direi, molto completa, nel senso che è una passione prima di tutto estetica, poi erotica e poi anche con molti contenuti, con uno spessore anche rispetto alla sua idea della vita, di quello che è il senso dell'esistenza dell'uomo nel mondo, ecco, anche esistenziale, se vogliamo. Anche perché Andrea dice: io vorrei essere madre, ma in realtà non ho mai voluto essere padre, quindi c'è una bella distinzione di fondo. Assolutamente, lui quello che vive è una fortissima invidia per la maternità, un'invidia per la maternità in quanto nella sua mente è l'unico modo per gli esseri umani per perpetuarsi e per sconfiggere la morte. Quindi l'idea che la donna, portando dentro di sé un corpo, un altro corpo che fa parte di lei, abbia in qualche modo superato il destino comune di tutti gli esseri umani della morte, della fine, perché quello che nasce è qualcosa che porterà avanti il suo stesso corpo, mentre invece l'uomo trasmette soltanto delle idee, dei pensieri, delle informazioni attraverso il DNA, ma non la carne, il sangue, come la donna. E questa sua idea diventa un'ossessione. Quindi una maternità proprio in senso fisico, cioè lui vorrebbe essere madre. Mi ha fatto pensare per esempio al caso di quel transessuale, abbiamo visto tutte le foto tempo fa su internet, in cui quest'uomo, che in realtà aveva ancora gli organi riproduttivi di una donna, rimaneva incinta proprio fisicamente. Ci hanno anche un po' scioccato quelle immagini. Quindi Andrea vuole essere madre nel senso fisico. Assolutamente, io quelle immagini di fatto le ho viste mentre stavo scrivendo, era proprio il periodo in cui stavo scrivendo il libro, non posso dire che mi abbiano influenzato perché ovviamente nasceva prima, però le ho viste e mi hanno molto colpito, anche visto che mi interessa questo argomento. La fisicità è fondamentale, Andrea parla del sangue, della carne, anche del dolore del parto, arriva ad invidiare persino il dolore del parto. A un certo punto nel romanzo tu scrivi che un uomo in qualche modo è menomato, così fra virgolette, proprio perché non può creare, non può procreare. In questo è inferiore, sempre fra virgolette, ad una donna. Freud ci ha tempestato con la sua invidia del pene, invece a questo punto scopriamo che il maschio ha l'invidia della pancia. Penso che ci sia stato sicuramente un ribaltamento negli ultimi anni in questo senso, una sensazione che posso avere, io non sono né uno studioso, né un antropologo, né uno psicologo, però l'idea che io vedo molte persone che mi circondano che provano questa forma di invidia, ed è una forma di invidia che nasce proprio dal fatto che la donna appare più completa per questa possibilità, che all'uomo non è data. In una società nella quale il dominio forse perde importanza, il dominio, la superiorità fisica, insomma, grazie al cielo il mondo cambia, la forza fisica perde di rilevanza e quindi forse l'equilibrio che si forma nasce proprio dal fatto che comunque la donna ha questa possibilità di contenere in sé la vita, e questa capacità di contenere, secondo me, e secondo Andrea soprattutto, diventa una metafora della possibilità di contenere anche la diversità, per cui Lena, il personaggio femminile, è una donna capace di accettare qualunque situazione, non di accettare passivamente, ma di elaborare qualunque situazione, di viverla e di reimpostare la propria esistenza qualunque cosa le succeda, mentre invece Andrea è totalmente incapace di reagire a qualunque cosa gli succeda. E credo che questo sia portato all'estremo un po' la caratteristica della donna e dell'uomo. La donna è sicuramente molto più plastica rispetto all'uomo, che tende ad essere più rigido. Spesso le donne in gravidanza si sentono poco attraenti, alcune per esempio desiderano non avere rapporti sessuali, insomma leggendo questo libro credo che tutte le donne incinta vorrebbero avere accanto un compagno come Andrea. Tanto è vero che spesso quando le donne sono incinta è lì il momento in cui avvengono i tradimenti. Andrea è un uomo controcorrente. Credo che gli uomini, ovviamente sono tanti e sono vari, quindi che si possano dividere in tante categorie. Penso che ce ne siano molti uomini che hanno una passione per le donne in gravidanza, non soltanto Andrea. Io ho parlato con diverse persone che provano questa attrazione anche puramente erotica, perché all'inizio la passione di Andrea è anche puramente erotica. Non sono sicuro che il motivo del tradimento sia il corpo che cambia, anzi sono abbastanza convinto che il motivo del tradimento sia il panico dovuto al fatto che per la prima volta ci si trova di fronte a qualcosa di assolutamente irreversibile e quindi di fronte all'irreversibilità di una situazione l'uomo viene preso dal panico e scappa. Io non credo che scappi perché è il corpo della donna che non lo attrae. E questo era Amedeo Romeo, autore di Non piangere coglione, pubblicato da ISBN. Seconda segnalazione di oggi, La porta delle lacrime di Abraham Verghese, pubblicato da Mondadori. È la storia di due gemelli nati da una suora indiana che aveva avuto una relazione segreta con un chirurgo inglese in un ospedale di Addis Abeba. Siamo negli anni 50. I due gemelli vivono quasi in simbiosi, finché la passione per la stessa donna gli farà prendere strade diverse. Uno dei due lascerà l'Africa e andrà a vivere negli Stati Uniti. Ma ecco come Verghese parla del suo romanzo. So this is an epic story that takes place over two continents and I particularly like the idea of geography affecting your destiny. È una narrazione epica che riguarda due continenti e in particolare l'idea di come la geografia possa incidere sul destino. Napoleone diceva che la geografia cambia il destino. Volevo scrivere un romanzo medico, ma facendo saltare i protagonisti da un continente all'altro e creando così grandi cambiamenti nei rispettivi destini. Il suo romanzo, appunto, anche molto medico, c'è molta medicina descritta. Lei è un medico, quindi c'è molto della sua esperienza anche nel romanzo. Well, the novel is very surgical and it turns out that I'm actually not a surgeon, I'm an internist, a specialist in infectious disease. Il romanzo è molto chirurgico, nel senso che benché io sia un internista specializzato in malattie infettive, ci sono molte idee basiche della medicina che trovo importanti. Per esempio, il rapporto medico-paziente è importante, non è mai cambiato dall'antichità, sia che tu sia in Africa o in un ospedale sofisticato nel mondo occidentale. Il rapporto medico-paziente rimane fondamentale anche se nel mondo ipertecnologizzato viene un po' diluito. Però volevo sottolineare questo aspetto dell'importanza della medicina vecchia maniera. Per la presenza nel suo romanzo di elementi medici, appunto questa storia è stata un po' paragonata a delle serie televisive molto di moda, da Grey's Anatomy al Dottor House, eppure lei detesta, mi sembra di capire, le serie televisive, i cosiddetti medical drama. Well, I'm not sure hating is the right word. I think that when I watch it, I wind up getting. Non credo che odio sia la parola giusta. Diciamo che quando li guardavo ero un po' disturbato dall'idea che le cose descritte lì non corrispondessero alla realtà. Certo, rimangono delle belle storie di intrattenimento. Penso che un romanzo sia diverso. Ti dà il tempo e l'opportunità di cercare la verità. Così quando la gente mi dice «Mi stancano i romanzi, ho tempo solo per le fiction», io dico loro «Pensate alla capanna dello zio Tom che ha portato all'abolizione della schiavitù in America». Quindi, massimo rispetto per il Dottor House e Grey's Anatomy. Sono dei bei drammi, ma in un'ora fai quello e poco più. Con un romanzo puoi essere più ambizioso, ed è quello che volevo fare. With a novel I think you can be even more ambitious, which is what I try to do. Tornando strettamente alla trama del romanzo, che rapporto si sviluppa fra i due fratelli gemelli? Well, I think the two twins twins are fascinating to writers. I think they're almost a trap. It's dangerous. I gemelli sono affascinanti per uno scrittore, ma sono anche un po' una trappola pericolosa perché ci si sente attratti dall'idea di due persone geneticamente identiche, quasi come due cloni. I gemelli sono la cosa più simile a un clone umano, però l'ambiente li rende diversi. Volevo proprio approfondire questa idea di come l'ambiente influisca su un gemello, rendendolo totalmente diverso dall'altro. Poi, alla fine del libro, il fatto che siano identici geneticamente diventa quasi una forma di redenzione per entrambi. Per questo penso che i gemelli siano un tema intrigante per uno scrittore, ma sempre pericoloso. That's why I was drawn to twins. It's an intriguing topic for a novelist, always dangerous though. E questo era Abraham Verghese, autore di La porta delle lacrime, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.